sente già nel cuore come quando è primavera ancora. Comincia la mattina per durare sino a sera e poi capire cos'è questa volta, quest'ansia che porti con te. Da tempo che aspetti e succede stavolta che c'è la venuta di un re. I ricordi all'improvviso li rivivi nelle voci che il tempo ha lasciato qui. Se ascoltate per un figlio non si perderanno mai, mai. Senti in questo tempo una nuova realtà e poi una foto con un nome, una storia che incomincia qui. Un momento che segna la svolta, un regalo, una vita per noi. Ancora una volta sai già com'è stato per dare qualcosa di più. Un bambino del sorriso mentre il tempo va veloce, questa storia poi continuerà. Un figlio di una figlia, la tua vita poi camminerà. Può viaggiare il tempo che poi scorre con l'età ancora. Non si invecchia con l'amore se vive nel tuo tempo e poi un bimbo in ogni sua età lo vivi in questa realtà. Ne segui ogni passo e lo ami davvero, con lui ci saremo anche noi. Dell'amore all'improvviso ne conosce nel sorriso e col tempo poi saprà chi lo ha amato già da prima di venire al mondo qui da noi. A noi, un bambino del sorriso mentre il tempo va veloce, questa storia poi comincerà. Un figlio di una figlia, la tua vita poi camminerà. Camminerà. Camminerà.